E buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Storm on Rock. Ebbene sì, finalmente dopo diversi mesi, quasi un anno, abbiamo la nostra sigla. Questa è la nostra sigla ufficiale che finalmente andiamo a cambiare da quella degli Against Me, dove ci appoggiavamo fino a domenica scorsa sostanzialmente. Sono carichissimo e c'è un motivo, perché oggi c'è effettivamente il cambio ufficiale della nostra sigla, perché gli artifici della sigla sono qui in studio con me, sono gli Stanis, sono a informazione completa. E dalla mia sinistra c'è Zed, che è chitarra voce, al centro c'ho Cicco, che è batteria e cori, e alla mia destra c'è Claudio, che sono io l'unico che può chiamarlo Claudio, ma in realtà per i più si chiama Stanga. Quindi ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Ciao ragazzi. Come state? Bene. Bene. Carichi. La grande. Sì. Allora, io ve l'ho già detto non so quante volte, la sigla mi piace un sacco. Grazie, mi fa molto piacere. Vi ribadisco anche il disco o EP, vediamo come lo definite voi. Mini disco o mega EP. ci sta, onestissimo. Esatto. È veramente figo e ci siamo messi d'accordo un mesetto fa della loro uscita riguardante il loro nuovo album Living as Consequences, che è il secondo sostanzialmente dopo una serie di EP che sono stati messi insieme per formare un album intero. Secondo album seguito un po' di più magari rispetto a quello che era stato i lavori precedenti, uscito venerdì, quindi siamo in tempi recordissimi, non mi era mai successo di intervistare esatto. qualcuno a ridosso della data. Ieri c'è stato il release party qui al Dev, una data che stavamo dicendo in puntata da diverse puntate, per l'appunto, in apertura Pardovas e Menagramo. Brevemente, come è andata? Come è stato? Bellissimo, oltre ogni aspettativa, diciamo. Molto bello, sì, è stato molto bello. Tanta bella gente, tanti amici, tante persone, è stato molto figo. Band valide e cariche. Sì, è proprio una bellissima situazione. Avevamo colto che diversi nostri amici un po' dappertutto sarebbero venuti, e quindi ci immaginavamo una bella situazione, però è veramente andata oltre ogni più rosea aspettativa, ecco. Ci ringraziamo tutti dal primo all'ultimo, ovviamente. Esatto. Sì, grazie mille, soddisfattissimo. Vi do anche i collegamenti per il numero da cui potete mandare qualche messaggio: 333 180 94 94, oppure, se dato che comunque i numeri nostri ce li avete tutti, scriveteci tranquillamente in privato, che bene o male lo leggeremo, e se ci sarà qualche commento positivo o negativo o qualche domanda, perché tanto da quello che ho capito ieri sera, col fatto che sapevano che io sono in radio sulle Storm on Rock, sulla Città Fujiko, e avendo voi in intervista, ho detto: ah, bella ragazzi, vi seguo, come faccio, come non faccio? Quindi 333 180 94 94, oppure ai messaggi dei nostri personali, che ce li abbiamo tutti sotto mano. Io l'ho messo in modalità aereo. Anch'io. Vabbè, basta la vibrazione. Tanto... Ah, ok, sai, non siamo avvezzi alle ospitate, quindi dai, allora tolgo la modalità aereo. Sì, vai, togli pure. Per ricevere la concetta di delusione che non ci scriverà nessuno, fondamentalmente. No, che magari si sentiva il ti degli altri. No, basta che le seghi la suoneria, poi siamo a posto. Ok, suoneria segata. No, io volevo il ti molto anni 90, ma niente, non so se niente. Vabbè, fa lo stesso. Prima di iniziare effettivamente l'intervista, ho una domanda di rito che sto chiedendo a tutti, perché da qualche mese purtroppo, si è sta questa notizia che i NoFX il prossimo anno si scioglieranno, quindi siete in tre, quindi brevemente un po' a testa che cosa sono per voi i NoFX. Una testa, andiamo a te. Allora, il NoFX, come dire, è un po' il primo giro in bici che ognuno ha fatto sul punk rock, nel senso, quindi valore affettivo estremo, e non possiamo che riconoscergli per sempre il loro contributo nel farci diventare, almeno personalmente quando scrivo, nell'essermi fatto diventare quello che sono a livello compositivo, anche solo a capire cosa può essere bello, cosa può essere brutto, no, insomma sono tante cose a livello proprio inconscio che sicuramente vengono da gruppi come NoFX, Rancid, tutti i padri, insomma. E quando hanno detto che si scioglievano, meno male l'hanno deciso loro e non perché, capito, è successo qualcos'altro, quindi sì, io rispetto la loro scelta e ci sta, ci sta. Ok. Per quel che riguarda me, NoFX sono stati proprio la rampa di lancio per quello che riguarda la mia tra virgolette carriera pangraga. E, no, fondamentalmente mio fratello mi fece ascoltare per la prima volta in FS quando ero un cinno, e io mi innamorai immediatamente grazie a loro di questo genere musicale. E il fatto che si vogliono sciogliere per me va anche bene, perché fondamentalmente io ho visto sia The Decline dal vivo e Green Corn e sono a posto io. Perfetto. Quindi ho già archiviato la mia esperienza con NoFX. A me mancheranno più i concerti dei NoFX dal vivo, perché nonostante ogni tanto non abbiano fatto proprio dei concerti epici, però la situazione tra amici, persone che incontravi a un concerto dei NoFX, che era un po' un ritrovo annuale ogni due anni, era veramente molto bello. Quindi era anche proprio la situazione che si creava attorno, che è diversa da tutte le altre band che vai a vedere, perché i NoFX raccoglievano anche quelli che ascoltavano il punk ma ora non lo ascoltano più, però i NoFX li vado a vedere. I vecchi. Esatto, c'è la parola, diciamolo, perché siamo vecchi. Esatto. E quindi mi mancheranno quelle, mi porto nel cuore quelle belle situazioni che riscontravo ai concerti del NoFX, ecco. Ok, bene, fa piacere anche avere queste ovviamente varie idee su quello che sono i NoFX. Bene o male, fino adesso tutte abbastanza positive. C'è stato pochi che hanno detto mi interessa il giusto oppure non li ascolto proprio. Andiamo effettivamente a continuare a parlare con gli Stannis, perché sono, come dicevo qualche minuto fa, sono usciti con il loro secondo album Living as Not as Consequences. Cosa ne pensate? Siete soddisfatti di quello che avete tirato fuori? Assolutamente sì. Sì, decisamente, sì. Decisamente. Perché, parlando ovviamente, ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi siamo amici, quindi parlando con voi so che ci sono passati diversi anni prima che vedesse la luce questo disco, ovviamente tramite pandemia, e qui si vede un po', passatemi il concetto, la differenza tra una grossa band come potrebbe essere NoFX, che può tirare fuori un disco tranquillamente anche in pandemia senza potersi vedere e fare le prove, mentre voi effettivamente avete bisogno di vedervi per confrontarvi su come può venire fuori un pezzo. Sì. Quindi è stato sicuramente un periodo difficile anche per voi, soprattutto per le band underground. Sì, noi abbiamo avuto anche il problema che eravamo in comuni diversi e avevamo la saletta anche in un altro, quindi adesso sembrano passati anni, sono passati solo due anni fondamentalmente, quando c'era l'autocertificazione, tutte quelle sì. cose che... E noi con la paura di dire cosa facciamo, ci arrischiamo a fare le prove, no vabbè dai aspettiamo. E quindi sono passati proprio mesi che non riuscivamo a vederci se non in videochiamata. E ovviamente la composizione, almeno la composizione da band, perché io nella mia camera, nel mio studio, scrivevo, sviluppavo le idee, ho sviluppato i pezzi che poi sono diventati quelli dell'EP o del mini album, però... non c'era la realizzazione, non c'era la discussione con loro. Allora questo facciamolo tirare in questo, che c'è la saletta, almeno è dove nasce veramente il pezzo, perché l'idea può nascere nelle mie orecchie, però senza il discutere insieme come far rendere una parte, per noi un pezzo non è completo, senza il contributo magari di altri componenti della band, magari certi fill, certe cose non vengono fuori solo da una testa, quindi ovviamente l'insieme era fondamentale in quel periodo, solo che giustamente quando non si riusciva ad andare effettivamente alle prove, niente, si stava in casa, si videochiamava e si dicevano cagate fondamentalmente, però grazie al cielo Zed portava avanti il progetto con la sua chitarra, io potevo fare ben poco con la batteria, cioè zero praticamente, cioè proprio nulla. Mi faceva sentire le cose, perché ogni tanto lui veniva a lavoro, io e lui lavoriamo insieme, quindi mi faceva sentire un po' quello che tirava fuori, quindi magari qualcosa già potevo pensare. Ok. Però fondamentalmente finché non sei lì sullo strumento tutti insieme, certe cose esatto. non vengono fuori, non verranno mai. Quando capisci se una canzone suona o meno. Esatto. Se riusciamo a fare di tre strumenti una cosa sola. Il classico incastro, quando riesci a incastrare tutte le cose, allora vuol dire che funziona. Sì. Però mi ricordo che alcune cose erano tipo nate tipo in to repeat. Il ponte era nato perché lui aveva passato, aveva fatto un video dove suonava la chitarra e io per vedere se avevo capito come funzionava il pezzo mi ero registrato suonandoci sopra e poi alla fine della parte che mi aveva mandato Zed io avevo fatto una cosa a caso ma proprio per chiudere quella parte lì e ci siamo detti beh questa è un'idea di come potrebbe continuare il pezzo. Secondo me è anche bello, come dire, nel 2023, visto che cioè adesso viviamo in un'epoca dove se ti vuoi registrare delle cose in casa e anche benino per proprio a funzioni di demo e scambio di idee si fa, non siamo quel tipo di band, però assolutamente no, sono totalmente contro, no, però è affascinante, no, certo, cioè dall'epoca tipo era difficile anche mandarsi video per far vedere che però cosa. Il concetto non è... no, cioè la sala prove è poi punto finale, eccetera. Dove inizia, si sviluppa e finisce tutto. Si evolve, esatto. Nel mentre è arrivato un messaggio dicendo: Stanis, tantissima roba, trio pazzesco e gran melodie, bravi il Panza. Non so se. Ah, magari, sì. È mio fratello. Ah, grande! Ciao Panza! Bella bella. Grandissimo. Abbiamo parlato di To Repeat, appunto. E questo è uno dei primi pezzi che è uscito. Uno dei primi pezzi con un video ufficiale senza il font, il lyric video. Esatto. Questo con un video normale. Con attori anche abbastanza noti da queste parti. Discretamente anche bravini, non male. La grande scoperta. Esatto, quelle attitudini che non pensi di avere. È uscito anche un bundle poco prima dell'uscita ufficiale del disco. Com'è andata, come sta andando quel detto molto bene quel pre-order? Molto bene, infatti in realtà ci tengo anche a ringraziare Marco Divertimenti, esatto, grande Rami, che è stato l'artefice di tutto ciò che era grafico in questa uscita, tutte le grafiche, tutti i disegni, è tutto merito della sua penna. Tutto per la sua, infatti, tutto veramente bravo. Almeno noi ne siamo entusiasti. Proprio per me è un capo. Cioè gli è riuscito proprio a dargli, come dire, il disco è una cosa cioè, di musica, però lui è riuscito a dargli proprio anche un'identità grafica e visiva che rispecchiava proprio anche il mood del disco. Quindi è stato veramente. Cioè, è stato veramente perfetto. Se qualcuno ha bisogno di un grafico, chiamate Marco Divertimenti, che è veramente un fenomeno. Fa quello che volete. Proprio. Esatto, è veramente una macchina. Vi entra nella testa. Sì, è proprio stato bellissimo. Cioè, proprio, io sono sentito. Perché prima le grafiche le facevo io. Però io non sono un grafico e si vedeva proprio la differenza. E infatti qua è sempre un altro livello. Qua è un professionista, Ok, ok. Contentissimo. No, che poi è seguito anche da, è stato contattato anche da band estere, se non mi ricordo male, tipo Drunk Tank esatto. E qualche altra band minore. Ha fatto però delle robe anche per la FET. Sì. È vero, ha fatto il restyling del logo della FET. Esatto, era lui che lanciò questa idea che poi dopo venne colta dalla FET. Quindi bravo Marco, che tra l'altro era presente anche ieri sera. Quindi tanto come ritornando alla festa di ieri sera. Per riguardante l'album ho notato, non so se è stato fatto di proposito o quant'altro, però leggendo anche tutti i titoli, quando ovviamente ho visto la tracklist dietro, sembra che ogni titolo vada effettivamente a completare una frase. Living as consequences to realize, living as consequences to be short, living as consequences e quant'altro. Quindi è una sorta di concept album saltato fuori a caso. Allora, diciamo che tutto nasce dalla difficoltà di dare i titoli ai pezzi. ovviamente è nata prima la musica, i testi, e poi quando te c'hai il brano devi dargli un titolo. È solo che era tutto abbastanza nebuloso, perché a me piace fare le cose con un filo conduttore. E il filo conduttore a questo punto è stato il dare il titolo all'album, ovvero Living as Consequence, ovvero vivere comporta delle conseguenze. Dal momento che vieni al mondo hai già, cioè, devi fare delle cose per rimanere in vita in maniera onesta, in maniera positiva, no? E tutte queste cose io le ho alcune di queste cose, perché ovviamente non tutte, le ho analizzate nei testi, ovvero, per esempio, alcune magari sono un po' leggere come tematiche, ovvero, per esempio, abbiamo fatto una cover di, che poi dopo magari ascolteremo, non so. E quindi il pezzo si chiama To Cover, ovvero copiare. Oppure un pezzo parla magari del bere per dimenticare questa tematica, e il pezzo si chiama, anzi in realtà, bere per dimenticare quello che hai fatto quando hai bevuto per dimenticare, quindi. E quel pezzo si chiama To Forget, quindi dimenticare. E questi sono magari pezzi molto più leggeri. Ci sono alcuni pezzi, tipo quello che abbiamo ascoltato, To Repeat, che parla del perdere l'occasione, cioè perdere dei dettagli della vita, perché adesso noi siamo molto abituati che con Netflix metti in pausa, torni indietro se magari ti sei distratta al cellulare. Nella vita non lo puoi fare, nel senso, anche quando parli con una persona e ti racconta qualcosa, se non stai attento ti perdi dei dettagli di quello che ti ha detto, oppure perdi un sorriso, perdi uno sguardo. E quel pezzo lì si parla del non poter ripetere la vita, e come paradosso si chiama To Repeat, okay. Quindi ripetere. E infatti inizia dicendo: so che non è necessario, ma ripetere aiuta. E quindi tutti i pezzi hanno questo verbo all'infinito che analizza quella macro area di significato che è quel verbo lì, in funzione della vita. Poi ovvio che non vogliamo essere dei profeti, è semplicemente una visione personale di alcuni aspetti del vivere, che possono essere un po' seri, come magari affrontare certe malattie, o più leggeri, come bersi una birra di troppo. Quindi diciamo che il filo conduttore è quello lì, ovvero le conseguenze che comporta vivere, fondamentalmente. Ok. Che è il titolo. Ok, ci sta. Spero di non essere stato troppo pesante. No, figurati, anzi, guarda. Spiegoni. Al massimo nel caso faccio dei cenni, nel caso ci si dilungasse troppo, però effettivamente era giusto arrivare a una conclusione effettiva di quello che stavi dicendo, di quello che ti avevo effettivamente anche chiesto. E quindi, bella, ci sta, va benissimo. Prima di mandare un ultimo pezzo, che andremo poi in pubblicità, avete qualche altra data oltre quella che avete fatto di release ieri? Avete qualche cosa in progetto? Al momento no. Perché a un certo punto ci siamo detti, siccome abbiamo deciso di fare tutto da noi per questo disco senza alcun tipo di aiuto esterno, e ci siamo detti: concentriamoci molto bene nel fare questa cosa. Il release party ce lo siamo organizzati tutto da soli, e il dev ovviamente ci ha dato una mano e la disponibilità nel fare la data da loro, però ci siamo detti: concentriamoci nel fare bene questa cosa, che venga, che il disco esca e che venga fatto venga celebrato in un certo modo, e dopo ci concentriamo sul resto. Quindi da oggi siamo aperti al mercato, se volete chiamarci a suonare noi veniamo e ce lo dite, alzatela al primo squillo, sappiamo già di che cosa si tratta, al secondo sia già da voi. Se volete farci suonare adesso si può. Ok, va bene, ci stavo giustamente qualche priorità, no, come si dice, perché sennò era troppo casino da poter mettere in mezzo e grafica, quando c'era il discorso di poter mettere sulla la copertina poi la registrazione, stesura, quindi poi metterci in mezzo un discorso anche di dire facciamo le date dopo che ci si parla un po' più avanti, ci sta. Anche aperta e chiusa parentesi, scusa, vai. È che con la pandemia, che quindi non hai suonato, alcuni posti non esistono più, gente che prima organizzava concerti adesso ha capito che, cioè con la pandemia ha capito che quando è iniziato tutto quanto non ne aveva più voglia, cioè è diventato molto complicato sia per chi organizzava e sia per chi cercava di suonare, quindi c'è tutta una macchina che deve essere un po' rimessa in deve essere un po' rimessa in moto, ecco. Cioè, per dire, noi conoscevamo tanti posti che organizzavano concerti e la pandemia li ha annientati. Sì. È molto difficile, moltissimi anche posti grandi che sono chiusi, quindi figurati i posti piccoli, certo, dove piace suonare a noi. Certo, a più vaste dimensioni. Seconda parte di Let's Talk More Rock, siamo sempre in compagnia con gli Stanis, quindi stavo continuando a parlare del nuovo album e abbiamo detto diverse cose che sono uscite ovviamente nella prima parte. Mi è venuto in mente l'altro giorno, ho detto cerchiamo qualcosa di particolare da poter chiedere, mi è venuto in mente un potenziale album, nel senso, vi ricordate come tutti conosciamo il classico NoFX Rancid? Sì. Avete mai pensato a fare una roba del genere? Guarda, io ho avuto l'illuminazione ieri sera, a un certo punto mi sono sognato uno split Stanis Menagramo, dove noi rifacciamo i pezzi dei Menagramo in chiave hardcore melodica e loro rifanno un pezzo nostro in chiave folk punk. Ho avuto queste, però mi sono scordato di dirlo a Harry quando sono andati via. A me sarebbe sempre piaciuto, è solo che ho sempre avuto questo scoglio del dire ok, Rancid e NoFX sono i Rancid e NoFX, possono farlo, band come noi ha più senso che fare gli split come esiste, cioè come nella loro chiave normale, ovvero una band porta i suoi 3 o 4 pezzi, perché non siamo a quel livello di notorietà che poi magari ci arriveremo, non lo so, però ho sempre sognato di farlo, ovviamente, però sono sempre stato con un piede sul reale, ovvero ma chi mi si cura? E a dirla tutta, devo essere sincero, a me quel CD di NFX e di Rancid mi ha sempre fatto cagare a spruzzo. A tutto proprio? Tutto, a parte Radio, a parte Radio di NFX. Vabbè, Olimpia è più bella la versione. Io non sono mai riuscito a mandarlo giù quello split lì. Sei il primo che dice che gli fa schifo tutto proprio. Solitamente c'è questa classica diatriba. Bel meglio NoFX, meglio i Rancid e quant'altro. Tu sei il primo che. Entrambe le parti mi hanno deluso dei livelli totali. Infatti, quello lì ce l'avevo anche originale. Ce l'avevo. Me allora. Bella me, ce lo trovo. Ad essere sotto il tavolo che mi ballava. sì, no, quando l'ho ascoltato ho detto: ma cos'è sta fattù? Addirittura. Sì, ero completamente deluso. Mi aspettavo una roba stratosferica, perché appunto tutti ne parlavano benissimo. Io invece sono stato deluso in maniera proprio scottato, però beh, ognuno le fa la propria opinione, per carità. No, alla grande, questa è proprio la primissima volta che sento il schifo tutto. Non lo so, magari mi tireranno dei sassi appena esco dalla radio, arriverà la punk polizia a picchiarmi per questa bestemmia che ho detto, magari, però... Io la penso così, non odiatemi. Ti guardo già con occhi diversi. qua si vedono. Però ammetto che una gag come ha detto Stang con il Menagramo sarebbe divertente. Lo ammetto, sarebbe molto divertente. Ci starebbe, perché stavo pensando, mi è venuto in mente ma anche a tempo perso proprio. Sì, tipo... dici, magari anche solo da live. Proprio magari da live incuriosisci e dici perché non registrate. Qualcuno magari ti viene a chiedere, tipo me, perché non registrate? Non sarebbe male. Sì, tutto... sì, no. Sì, è una cosa curiosa da fare. Chiamare effettivamente qualcuno che fa lo stesso vostro genere non avrebbe senso, perché dici. E invece con il Menagramo, che anche a me ho avuto l'illuminazione ieri sera, dicendo chi potrebbe accompagnarli loro, il Menagramo, così ci sono due generi non diametralmente opposti, però ci si sente la differenza di quello che poteste mettere voi per il Menagramo e viceversa, però pensateci, sentitevi, cambia forse la musica, però l'attitudine è sempre la stessa, la melodia è quella, quindi è quella la cosa bella. Cioè, io sono grandissimo fan di andare a un concerto e vedere band stessa attitudine ma generi anche molto molto molto diversi tra di loro, ecco. È come andare a vedere, che ne so, Bad Religion e Less Than Jake, cioè sono stesso background fondamentalmente, però sono due cose diverse fondamentalmente. Sì. A me piacciono quelle situazioni così a caso, un po' che accontento un po' tutti. Festivaloni, tipo. Festivaloni, sì. Va bene, ci sta, ci sta. Tornando a voi, all'estero, che dato che avete fatto qualche data all'estero, com'è andata? Io qualcuna c'ero, però il vostro background su com'è la scena al di fuori, dici, per una band italiana che fa hardcore melodico e quant'altro, canti in inglese e quant'altro, come avete vissuto l'esperienza? Allora, è stato bello e sono passati anche però un po' di anni, perché l'ultima esperienza all'estero è stata al The Fest, proprio prima della pandemia. Infatti il 2019 è stato l'anno, non dico perfetto, però è stato proprio un anno bello, il grande slam dove siamo riusciti a fare Conrad, Punk Rock Holiday e The Fest in Germania, in Slovenia e in Florida, ed è stata, e diciamo, ci siamo tolti la voglia per un po' perché poi è venuto il Covid, però sì, il response è stato comunque positivo. Ovvio che eravamo dei signor nessuno là, però anche da signor nessuno abbiamo avuto dei bei feedback, quindi è stato molto molto gradevole, molto, cioè, è stato beh, speriamo di rincominciare presto, ecco, diciamo così. Sì, portare questo genere di musica fuori dall'Italia è, diciamo, ormai anche un po' necessario, perché nel suolo italiano lo si sa che non è molto, no, troppo spinto. C'è una bella scena, per carità, però questo genere proprio in particolare, quello che facciamo noi, cioè skate punk rock, un po' in ombra ancora, sì. Però all'estero è sempre ben accetto e penso che vada ancora, quindi sarebbe molto bello portare fuori in Europa questo lavoro, non sarebbe affatto una brutta idea. Alla grande, quindi anche noi torniamo a parlare un attimo di musica. Volevi aggiungere qualcosa tu, Claudio? No. Intervista sempre qua con loro. C'è rimasto qualcosa al di fuori del mini EP album? Qualcosa in cantiere ancora, già pronto per... Non in una forma finale. Come al solito ci sono tante idee, tanti riff, tante tematiche che però non riesco ad incastrare. Cioè, oltre al riff da 35 secondi, non riesco a darci una continuazione. Quindi magari porto in sala, dico, oh rega, questo pezzo nuovo, sì sì, figo. Però oltre al riff iniziale non riesco a costruire il pezzo. Dobbiamo semplicemente metterci lì e focalizzarci sul riff e stare lì con la testa, fondamentalmente, perché poi magari, sai, devi fare la scaletta perché c'è un concerto, eccetera, eccetera. Lui tira fuori il pezzo, magari lo accompagna un po', poi dopo vabbè, faccia la scaletta. Vabbè. Va tutto un po' in vacca, però sì, sì, manca quella, diciamo, quella concentrazione, quel star sul pezzo tutti insieme per riuscire a creare quel momento. Però lui è una macchina da guerra, perché sforna riff su riff, c'è ancora un riff che io vorrei tirarsi fuori da mille anni, dal 2016 che gli chiedo di tirarlo fuori, di usarlo, lì niente, lo tieni lì, non ne frega niente, però è un intramezzo. Io porto pazienza e vediamo se prima o poi lo tirerà fuori. Donerà questa gioia che a me piace tanto. Ci arriveremo. Diciamo che adesso è uscita Stanis la seconda stagione, stiamo scrivendo la terza. Esatto. Inizieremo a scrivere la terza. Parafrasando così. Esatto. Ci sta. Molto italiano. Sì, sì, questa la capiamo solo noi e fine. e chi segue quella determinata serie. Esatto. Il pezzo che vi mette d'accordo, dici, questo piace a tutti e tre. Che domanda difficilissima. Ah, esatto, anche che perché battaglia. Oddio, più o meno, adesso che non è che allora, tu repeat. Io cedo la palla a loro perché a me piacciono tutti, tranne uno. Boh, prende la posizione. No. Ah, è brutto. Sei senza spina dorsale. No. Allora, io sono super legato a Anxiety, che è proprio il pezzo che non vorrei mancasse mai nella nostra scaletta. Ah, tu intendevi di questo disco? No, di dischi. In realtà intendevo solo dell'ultimo. Ah, dell'ultimo. Allora tu repeat. Ok, questa era facile. Quindi allora passiamo a tutto quello che avete scritto fino adesso. Quella. Se devo dire, quella che mi diverte di più suonare. Ce ne sono due in particolare che mi divertono un casino. Sono Love Song. Okay. E tu repeat. Io sono quelle proprio che mi spompano a manetta, però mi diverto come un matto a suonarle, sono proprio divertenti. Zed, io però vorrei sapere anche tu. Io rispetto all'ultimo disco, se devo essere. Se proprio mi devo sbilanciare. Proprio, se devo dire che ho un figlio preferito. Tu remember. che è l'ultima del nuovo disco, è forse quella che mi diverto di più a suonare ed è anche quella più diversa dal nostro genere. Sì, forse. Vero, vero. E quella divertente da suonare. Sì. E invece, proprio di tutti i pezzi che ho, quello che adoro sempre suonare e che se sono triste quando lo suono divento felice, è Idiocracy. Ok. Idiocracy mi mette sempre di buon umore. È anche il primo pezzo che ho scritto, probabilmente, che poi inizialmente aveva addirittura un altro testo orrendo che dillo di cosa parla. Praticamente è stato il primo testo che ho scritto, perché quando ho detto fondiamo gli Stanis, i testi li devo scrivere io, quindi non l'avevo mai fatto, quindi ho detto vediamo un po' come si fa a scrivere un testo, e ho scritto questo testo orrendo su quanto era bello lavorare in legno perché facendo le chitarre, oh mio Dio, che retroscena, era proprio una merda, cioè tipo che bello col legno fai le porte che ti chiudono fuori dal mondo, che bello con il poi c'era anche questa sparata un po' politica religiosa, col legno costruisci la croce con cui crocifiggi il tuo, proprio una roba. Sì, no, una roba che l'ho letto e lui mi fa, è un po' una merda. Io, no, e poi, ho detto così, no. C'è pettorazzo, ho detto di una roba sembra per fare l'albero, ci vuole il seme. Sì, esatto. sì, effettivamente, poi rileggendolo, ho detto, sai cosa, non lo riesco a cantare bene, non si lega, e l'ho cambiato completamente con quello che poi è l'attuale testo, che anche lì mi piace. No, la vista. Bomba, è vero. Però, è sì. Però a sto punto vorrei sapere il pezzo brutto che dicevi prima. Adesso non voglio fargli litigare, però non è un pezzo brutto. In realtà tutte le volte che poi lo riascoltiamo diciamo questo è un pezzo della Madonna, proprio senza autocritica, proprio anche senza modestia, proprio, esatto. No? Senza modestia, questo è un pezzo della Madonna, però quando lo suoniamo non ci ed è Ready Reply, paradossalmente è proprio il primo singolo del primo video perché penso sia l'unico pezzo l'unico che è nato proprio dall'inizio alla fine in un'unica prova. Ah, ok. In un'unica prova, one shot one kill. Avevamo proprio il flow giusto buttato giù, bello così com'è registrato, e lo riascoltiamo da registrato, diciamo beh, però è un gran pezzo, che bello. Poi sa la prova, ragazzi, da fare Ready Reply. Che palle. Bello anche questo retroscena. Ultimi minuti scarsi per andare a concludere un po' l'intervista, che divertentissima, e finalmente riusciamo a avere anche con gli Stanis, dopo quello che è un po' successo, e mi fa piacere avere anche qualcuno in studio piuttosto che solo su Instagram, perché è bello, però è un po' più distaccato, questa sì. È più fluida, no? più presenza cioè, sono più cazzate alla fine quando vengono fuori. Poi col fatto che ci conosciamo è ancora poi più con facile con noi altri, quindi... proprio ti viene anche facile, esatto. Rischiamo il ban, esatto. No, dai, alla fine nulla di eclatante è saltato fuori. No, dai, quindi esatto. Dicevo, battute finali, prima di andare a chiudere con un piccolo spoiler che nessuno forse ha colto, ma andremo a chiudere con la cover, quindi come è nata la cover a sto punto? Allora diciamo che a me è sempre piaciuto prendere pezzi non punk e farli punk, perché vuoi che abbiamo tutti nel cuore Me First and the Gimme Gimmes, lo intendo una forma di d'arte, anche quella, riuscire a rendere bene, si spera sempre ovviamente, qualcosa che era già bello e non snaturarlo, magari portarlo, traghettarlo su un'altra scena che magari non conosceva quella tipologia. Io per esempio molti artisti li ho conosciuti grazie anche a Me First, tutto il filone del country americano, quando loro hanno fatto, che adesso mi sono anche appassionato, li ho conosciuti grazie a loro. Quindi magari uno fa una cover e fa comunicare scene, diciamo, e niente, quindi ho detto raga, ma facciamo una cover di un pezzo non punk. Abbiamo buttato giù delle idee, ognuno aveva portato delle proprie, c'era anche una canzone, quella, esatto, di Scrubs. Ditemela qualcosa, sì, che è rimasto fuori, che sono curioso. Io volevo fare quella Danny Kissing Me, è una canzone molto vecchia, se non mi ricordo neanche il nome della band, in maniera molto stupida da parte mia, però era una canzone che c'era in un film che si chiamava, anche quel nome del film non me lo ricordo. Vabbè, bella però quella. È molto bella quella canzone. Tipo quella tipa. Forse che ha fatto per quel quell'altro motivo che non l'abbiamo fatta. Comunque mi sembra che si chiamasse Tutto Accadendo Quella Notte, Adventure, okay. Babysitting si chiamava, sì, il film. Okay. Oppure c'era un pezzo di Johnny Cash, però poi alla fine, grazie a una bellissima modalità di YouTube, ovvero quella di velocizzare i pezzi, se fai partire un video su YouTube puoi decidere anche la velocità, noi abbiamo cominciato a sentire grau che è, insomma, posso dire, sì, no, sì, stato, è il pezzo che andiamo a chiudere praticamente tra poco. La colonna sonora di Io sto con gli ippopotami, esatto, cantata da Bud Spencer, che ovviamente noi salutiamo, dall'alto dei cieli, esatto, con Bud che ci starà guardando e starà dicendo: ma che cavolo hanno fatto, esatto, sta facendo esatto la sua classica faccia. E abbiamo detto: ma perché non facciamo questa, anche perché comunque noi siamo stati alla soglia dei 40 anni, siamo cresciuti con quei film lì che speravi che la sera su Rete 4 dessero quei film lì, perché ti mettevano la voglia di fare amicizie, di fare a scopaccioni, capito? Esatto, di portare giustizia, esatto, anche, di combattere, esatto, le ingiustizie. E quindi abbiamo detto: ma perché non facciamo questa? Dopo un po' di tentativi, perché ovviamente c'hai il tema principale, ma come lo rendi per... Dopo un po' di tentativi siamo riusciti a trovare una quadra, facendo anche la parte iniziale un po' funambola, e alla fine ci è piaciuta, aveva anche una bella grinta punk, e abbiamo detto: è andata, facciamo questa. Benissimo, yes. Io, ragazzi, devo andare in conclusione perché ci mancano proprio pochi minuti e mettendo il pezzo non vorrei sforare, quindi io vi ringrazio della disponibilità di essere qua. Grazie a te. Tutti e tre. Ultimi, brevissimamente, se c'è qualcosa che non vi ho chiesto, che volevate dire riguardante band oppure argomento X un po' a caso? No, al momento niente, dai, confermiamo tutto. Va bene, quindi confermiamo. Se si vogliono ascoltare, le persone si vogliono ascoltare Living as Consequence, dura solamente 17 minuti e per noi però noi ci abbiamo investito molto molto più tempo e niente, abbiamo questo nuovo disco fuori. Fateci sapere. Quindi attendiamo anche le date, le prossime date che magari andrete a fare in giro per l'Italia e si spera anche magari all'estero. Vi ringrazio di nuovo di essere qua, di questa oretta passata qui insieme a me. E come dicevo prima, salutiamo tutti, salutiamo a casa, salutiamo tutti. Ciao. Salutate anche voi. Ciao. Ciao a tutti.